cinema popolare e di genere. L'anno scorso alla Mostra di Venezia, ora al cinema con un film balneare, uno dei simboli degli anni Ottanta, Jerry Calà, in Operazione Vacanze. Ma sì, ma sai, io parto dal presupposto che la cosa che a me più interessa è essere soddisfatto con me stesso, cioè io sono contento già per averlo fatto un film, sono felice nel momento in cui lo faccio, in cui vedo il tecnico che mette a posto le luci, il regista che dà l'azione, andare al trucco, cioè quella è proprio qualcosa che ti entra dentro. Poi se il film va bene, va benissimo, va benino, insomma quello ci sta, l'importante è averne sempre un altro da fare. Tu per gli italiani sei uno dei simboli di una certa epoca, ma anche di un certo modo di essere, di una certa allegria, di una certa spensieratezza che adesso manca totalmente. Infatti, guarda, sai come lo definisco? Visto che a volte vedo che i giornali si danno un sacco da fare per trovare dei nomignoli, diciamo, alle commedie popolari, hai capito? Questo qui è un cine salvagente. Perché in questo momento, hai capito, direi al pubblico, attaccatevi al nostro salvagente, fatevi un mare di risate e dimenticate per un'ora e mezzo un po' di sfighe che, come apri la televisione, la radio, i giornali, qua tra spread, IMU e l'IMU di Murtaccio. Operazione Vacanze. Diamo inizio alle danze, salsa, merengue, latino, oh oh oh, col gioco aperitivo, oh oh oh. E quando è l'ora del tè, ti fanno il gioco caffè, e se rispondi sbagliato, sarai per sempre sfigato. Però sei stato accolto con tutti gli onori a Venezia, è stata una cosa importante per te? Ah, beh sì, è stato bello, soprattutto perché sono ancora vivo, perché di solito queste cose qua, le rivalutazioni dei film e degli attori le fanno quando tu, insomma, non le puoi più ricevere, tranne che attraverso una seduta speritica, se è vero che c'è qualche tipo di comunicazione con l'aldilà. Per cui mi ha fatto molto piacere che a Vacanze di Natale a Venezia è stato riconosciuto comunque un film importante, un film che secondo me ha fotografato proprio un'epoca, ha fatto una fotografia nitida e molto satirica degli anni Ottanta, dell'opulenza, del cafonismo degli arricchiti, insomma, di quelli che non è ancora finito purtroppo. E beh, è certo che mi fa molto piacere, ma infatti io per quello che vado avanti imperterrito a fare il mio lavoro, perché secondo me anche fare, chiamiamoli pure dei filmetti, però insomma ci vogliono anche quelli. Pensa se al cinema ci fosse solo Diaz, i 100 giorni che sconvolsero il mondo, o che ne so io, o la sfiga sulla città, cioè voglio dire, non dimentichiamo il genere è importantissimo. Tu cosa pensi quando riguardi quei film, rivedi quell'Italia, ma rivedi anche te ragazzo, eri un bambino, dai. Ecco, quella è la roba che mi sta più sulle balle, di vedermi quando ero giovane, perché insomma, essere giovani è bellissimo, però devo dire che non è male neanche avere 60 anni oggi, perché insomma i 60 anni sono stati un po' rivalutati, no? Io dico che siamo i quarantenni di una volta. E poi ho anche la fortuna di avere un bambino piccolo che ha compiuto adesso 9 anni, il che mi ha dato senz'altro nuove motivazioni anche per non mettermi ai giardinetti, voglio dire, a guardare i colombi, ma il fatto di avere un bambino che magari c'ha i suoi amichetti che richiedono, ma tuo padre, mio padre è al cinema, cioè io lavoro soprattutto in questo momento per lui, perché sennò magari sarei già mi sarei già ritirato, ma io invece lui mi dà la voglia di far vedere che io ci sono e ci sono ancora alla grande. Ecco. Gli hai fatti vedere i tuoi vecchi film, gli hai dovuto spiegare delle cose visto che la realtà è un po' diversa oggi. Ma i bambini capiscono tutto, però anche lui dice, però che bello una volta. Ed è quello che secondo me motiva anche migliaia di ragazzini che io con stupore vedo arrivare ai miei spettacoli, no? Io faccio tanti spettacoli nei club, nelle piazze, nei teatri d'estate. Vedo arrivare un sacco di che non erano neanche nati quando sono usciti quei film, eppure li sanno a memoria. Libri e musica di un mondo che nasce beat, un disco dell'Equipe. L'automobile, beato chi già ce l'ha, è quella di papà. Oggi è sabato, domani si dormirà, sogni di gloria. Beat, beat, cos'era il beat? Umberto Smaila è qualche tavolo più in là. Un'amicizia che dura da una vita, qualcosa di importante? Sì, molto importante. Un'amicizia che dura da 45 anni, penso, perché ci siamo conosciuti proprio adolescenti sui banchi del Liceo Classico di Verona e tutte e due suonavamo nei complessini degli anni 60. Lui suonava la pianola, una volta si diceva, io suonavo il basso e ne abbiamo fatte tante insieme. Poi abbiamo fondato anche, anzi Umberto è il vero fondatore dei Gatti di Vicolo Miracoli, abbiamo abitato insieme per tanti anni, siamo di famiglia, voglio dire, siamo parenti, siamo oltre l'amicizia. Te lo confesso, i gatti li rivedremo volentieri, eh? Insomma, quello non si sa mai, vedremo, prima di morire. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il mio Twitter, @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.